Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E benvenuti a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi vede una trasmissione divisa in due parti. Una prima parte con l'intervista di Morina Moretti e Luca Scivoletto, che è il regista di un film appena entrato nel circolo cinematografico ed è un film a noi molto caro perché tratta dei I Pionieri. E la seconda parte invece ci racconta, con l'intervista sempre di Morina, d'Alberto Scansi, di questo giardino che a Bergamo si è inaugurato ed è dedicato a Gianni Rodari. È uscito il film di Luca Scivoletto, I Pionieri, che è un film, una commedia ironica sul senso della perdita. La perdita è quella del Partito Comunista e della crisi del comunismo internazionale negli anni Ottanta. Una perdita vissuta clamorosamente e in modo divertente da due adolescenti che scappano di casa e ricreano il campeggio dei pionieri, questa associazione ormai da tempo, negli anni 80, già scomparsa, che invece fu una delle cose più importanti fatte dall'API, l'Associazione Pionieri Italiani di Carlo Pagliarini. Un film dunque che fa sorridere per questi due adolescenti davvero bravi nell'interpretare la parte dei ragazzi ribelli, ma che dimostra anche che c'è un ricordo latente, una voglia di riscoprire un senso profondo del far politica e dei valori. Abbiamo raggiunto Luca Scivoletto, il regista del film, per capire di più di questa proiezione. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa. Luca, è uscito ieri praticamente il tuo nuovo film che è I Pionieri. A noi interessa tanto ovviamente questo argomento, è un film sull'amicizia di bimbi ma anche di adolescenti ed è anche in parte, come dici tu, autobiografico, ma ovviamente non è un film autobiografico. E questo film, ci puoi raccontare di questo film gli snodi più importanti, perché qui dentro c'è anche tutta la parte legata a una crisi generazionale rispetto a quella caduta del mondo comunista, quindi un doversi, come dire, ricostruire da parte di una generazione sia dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista politico, no? Sì, il film un po' nasce da, appunto, come dicevi, da uno spunto autobiografico, perché sono figlio di un funzionario del PC e di una mamma comunisti, insomma entrambi, mio padre ha fatto anche il parlamentare del partito e da piccolo ho frequentato moltissimo la sezione, anche perché i funzionari del partito erano stavano sempre al lavoro, ecco, non avevano poco tempo per la famiglia, quindi l'unica possibilità per stare con i figli era coinvolgerli nelle attività di sezione. L'unico particolare è che sono cresciuto però negli anni 80, non negli anni 60, quando il PC era il grande PC, e quindi era un momento molto diverso, era un momento in cui intanto c'era l'influenza del mondo occidentale dal punto di vista dei consumi, degli input che arrivavano anche dalla televisione, eccetera, e soprattutto c'era la crisi, il grande tramonto dell'Unione Sovietica e la tensione che già alla fine degli anni Ottanta si respirava del prossimo cambio di nome e anche di strategia. Allora, io tutto questo l'ho affrontato dentro di me, ma poi anche nel film, sempre con molta ironia, cioè non con nostalgia o con un atteggiamento, come dire, di riflessione seriosa sulla questione. Sempre, quindi mi sono veramente messo nei panni, prendendo spunto da me, ma mi sono proprio messo nei panni di un ragazzino che guarda a questo mondo cambiare, che guarda la sua famiglia, che guarda l'eredità che poi gli è toccata, in sorte e che guarda quindi anche poi a tutto questo in connessione ai suoi cambiamenti in quanto appunto preadolescente, in quanto ragazzino, quindi che sono cambiamenti legati tanto al corpo, al fisico, ma anche ovviamente alla scoperta di se stesso, all'idea di dover prendere delle decisioni in autonomia e quindi anche di autonomizzarsi da questa educazione comunista che lo ha segnato. Il film è comunque una commedia, infatti nel sottotitolo c'è una commedia sulle contraddizioni della politica e della vita, e quindi hai uno sguardo diciamo molto attuale su questa questione, ma anche molto, come mi stai raccontando tu, di tenerezza e anche di questo mondo, diciamo. Però io vorrei proprio centrare una domanda sui pionieri, cioè come li hai riscoperti? Perché questa è un'associazione un po' sparita e difficile anche da ritrovare, no? Allora, sì, ritorno sempre un po' sull'autobiografia, ma per spiegare perché sono arrivato a questo titolo e all'idea di mettere in scena, in parte, poi vedrete che nel film i pionieri come vengono messi in scena. Perché io mi sono detto, generazioni prima della mia, quindi hanno vissuto appunto dentro questa grande famiglia PC, che era molto più importante della famiglia naturale, soprattutto in Sicilia dove c'è un'importanza enorme della famiglia, no? Ma i comunisti, che erano minoritari diciamo rispetto alla società, a differenza delle regioni del nord, del centro-nord, facevano famiglia a sé, quindi per me la famiglia era quella, i riferimenti anche, insomma, i riferimenti proprio immediati, oltre ai miei genitori, erano i compagni del partito. Però c'è un grande rimpianto e un grande, come dire, ho una sorta di nostalgia del non vissuto, cioè nel senso che effettivamente quando io ero ragazzino desideravo ardentemente fare uno di quei famosi campeggi che organizzava il partito. In quegli anni non si cavavano più perché non c'erano proprio più tecnicamente i pionieri, però si rifacevano a quell'esperienza. Allora a un certo punto, poi dopo tanti anni, quando ho fatto le mie riflessioni sulla mia infanzia, ho detto però sarebbe stato bello essere anch'io un pioniere, no? Perché insomma sono stato educato in un modo pronto per la rivoluzione, in un certo senso, poi quando è arrivato il momento in cui ero un po' grandicello per poter fare delle esperienze politiche, tutto era cambiato, il partito stesso era un'altra cosa, non c'erano più queste organizzazioni capillari e non c'erano più i pionieri. Allora lì ho cominciato a studiare la storia dei pionieri, leggendo libri, frequentando, cercando anche su internet, con questo sito bellissimo di cui vi occupate, dove c'è un materiale molto molto ricco, e ho cominciato a fantasticare creando un personaggio che appunto io finora ho parlato del protagonista, che si chiama Enrico, chissà perché. Non a caso, sì. Ma il suo migliore amico, che è il coprotagonista del film, Renato, è un bambino che è figlio di un dirigente del partito della vecchia generazione, diciamo della generazione della Resistenza, che ha perso il padre, che era già anziano, molto piccolo, e che quindi non ha mai vissuto in realtà un rapporto col padre, e il padre era appunto stato un pioniere, era stato addirittura un capo reparto, diciamo, un organizzatore, e quindi ha ereditato tutto l'armamentario, diciamo, da campeggio dei pionieri. Quando il suo migliore amico Enrico gli dice scappiamo di casa perché ha litigato con i suoi genitori che gli vogliono imporre delle cose per quell'estate, sempre legata al partito, ma lui non gliene importa molto. Quando gli dice scappiamo di casa, andiamo a fare un campeggio, quello dice ok, l'amico risponde ok, ma facciamo il campeggio dei pionieri, perché per lui è proprio una riconnessione con il padre. E questo Renato, a differenza di Enrico, è uno per cui invece il partito, la politica, il comunismo conta tantissimo, è contro la svolta di Occhetto, e quindi è nel pieno del dibattito politico, è un bambino di 12 anni ma ragiona come un quarantenne, no? E quindi Enrico accetta suo malgrado, perché è l'unico modo per fare questa avventura, questa cosa dei pionieri. Quindi che succede? Renato, andando in campeggio, come dire, mette in scena per se stesso, in questo bosco che è un po' sospeso nel tempo e nello spazio, mette in scena un po' l'utopia della rinascita dei pionieri, che già non c'erano più. Chiama il reparto Antonio Gramsci, decide di organizzare il campeggio secondo il manuale dei pionieri di Rodari, e ovviamente poi tutto non va a scatafascio, perché nessuno gli importa nulla di questa cosa, perché siamo in un'altra epoca, eccetera. Però insomma è un modo per, ecco, per raccontare il totale anacronismo di Renato, ma allo stesso modo per ricordare, ovviamente con grande affetto e simpatia, questa grande comunità, quell'esperienza che poi io, appunto, non avendola vissuta, ovviamente un po' forse l'ho mitizzata, ma perché è qualcosa che un po' mi è mancato mi sento un po' di l'ultima generazione di figli del partito che però non ha mai vissuto quella vita lì, come invece hanno fatto tantissimi, tant'è che tra il libro e l'uscita del film non sai quanti di una generazione ovviamente più grande precedente alla mia mi dicono: ma io sono stato pioniere. Ma tantissime ed è per loro un ricordo, come tutti quelli che hanno fatto degli scout, anche altro, un ricordo bellissimo, insomma, di comunità, ecco. C'è un campeggio sull'alta montagna, tra i ruscelli di pascoli in fior. È il campeggio dei baldi pionieri, che ha per sempre l'Italia nel cuore. Quando in cielo già spunta la luna e le stelle ci stanno a guardare, una voce racconta le glorie dei pionieri di un tempo che fu. Piano piano si spegne la fiamma, i pionieri nel cuor sogna già di marciare per quella gran via che è di pace e di libertà. Poi tutti insieme forte. Piano piano si spegne la fiamma, i pionieri nel cuor sogna già di marciare sulle strade del mondo piene di pace e di libertà. E dopo l'inno del campeggio del pioniere cantato dalla Luciana Romoli, ex pioniera, ex partigiana, continua l'intervista di Morena Moretti con Luca Scivoletto, regista di questo film, I Pionieri. Hai accennato al libro, quindi è uscito un libro, sempre edizione Fandango, e quanto è fedele questo film al libro? Ma guarda, è una storia un po' particolare rispetto al classico meccanismo romanzo, cioè film tratto da romanzo, perché sono, a partire da questa storia che volevo raccontare, l'idea era quella di farne un film, inaspettatamente è nata l'idea, mi sono dato questa, come dire, ho accettato la sfida di scrivere anche un romanzo, sono molto diversi, nel senso che a livello proprio di temporalità del racconto, perché il film rispetto al romanzo racconta soltanto una parte, cioè che è appunto quella storia di questa fuga di due ragazzini e della creazione di questo campeggio, mentre il libro racconta tutto un intero anno scolastico e nella vita di questi due amici, quindi è un'amicizia di due ragazzini appunto cresciuti all'ombra del PC nella Sicilia degli anni 80-90, nella loro prima media. E quindi racconta tutto ciò che da una parte è il doversi integrare con gli altri, il fatto che appunto in Sicilia i comunisti erano marginalizzati, erano presi in giro nella Sicilia democristiana di quegli anni. Poi c'è ovviamente il tema proprio della crescita, della scoperta di se stessi, dei primi amori, dei litigi tra amici, della volontà di uno di rimanere fedele ai propri ideali, a quelli della sua famiglia, dell'altro di mischiarsi alla società, che sono temi che riguardano i ragazzini ma in realtà riguardano anche gli adulti e poi la sinistra in particolare, cioè rimaniamo puri e rimaniamo fedeli al nostro progetto oppure ci entriamo, come dire, anche, come dire, facciamo qualche compromesso con la società di oggi. Insomma, sono tanti interrogativi che ovviamente il libro sviluppa tanto perché c'è tanto spazio narrativo ed è un po' una testimonianza di come poteva essere comunisti e bambini in quella Sicilia lì. Il film invece è molto più concentrato sulla parte dell'avventura e sulla parte appunto dei pionieri in quanto tali. Luca, e questo non è il tuo primo film, E ricordiamo anche che l'hai presentato, è stato presentato fuori concorso al Film Festival di Torino e poi ha anche vinto un premio, questo premio Arcadia. E quindi sei soddisfatto del percorso che sta facendo il tuo lavoro? Sono molto contento. Intanto sì, è un'opera prima di finzione, è vero che non ho, che ho fatto altre cose, ma erano soprattutto documentari, quindi questo è il mio primo film di finzione, per cui sono molto contento, anche perché tanto per la reazione che ho sentito al Festival di Torino, è andata molto molto bene, e poi in Puglia al Sudestival c'è stato il premio del pubblico, quindi questo è un segnale bellissimo, anche perché si poteva pensare che raccontare ai ragazzini, vabbè, può essere un modo per raccogliere pubblico, però è vero anche che non abbiamo attori, i ragazzini sono sconosciuti, sono bravissimi, hanno un talento che vale la pena vedere il film soltanto per vedere questa opera d'arte che sono loro, perché sono eccezionali, però chiaramente senza grandissimi nomi di richiamo, con questi quattro protagonisti sconosciuti è un po' pericoloso, e poi parlare di politica, chissà, con le reazioni, poi parlare del PC, degli anni Ottanta, insomma una bella sfida coraggiosa, per cui ringrazio anche Fandango che ci ha creduto e non è scontato. E invece la reazione del pubblico, sia diciamo adulto, ma anche quello giovanile, dei ragazzi di adesso che sono nati nel 2008, insomma, che invece erano molto molto interessati alla vicenda, e persino a quella proprio politica, cioè nonostante Enrico sia il protagonista, un ribelle che si ribella quasi ai dettami politici della sua famiglia, loro hanno letto il film, i ragazzi più giovani, come proprio un segnale di un invito a far tornare la politica nella vita, di più nella vita quotidiana delle persone. Insomma, è molto interessante anche a proposito di quello che si diceva dei pionieri, cioè il fatto che i ragazzi di oggi, io ho l'impressione che sentano molto di più rispetto alla mia generazione, che è stata la generazione che ha disertato i partiti, anche perché ce li hanno tolti, quindi un po' è stato, i dirigenti li hanno tolti, noi li abbiamo disertati e siamo finiti tutti come siamo finiti a fare politica su Facebook sostanzialmente, e quindi si è persa la fisicità dell'incontro, anche dell'amore per i territori, per occuparsene, non del tutto, non voglio dire che è andato tutto male, perché ci sono esperienze che invece vanno in tutt'altra direzione, però diciamolo, non ci sono più le grandi organizzazioni. Allora, quindi questi ragazzi invece hanno reagito molto bene, quindi da questo punto di vista sono contentissimo, ecco, molto molto contento. Ragazzi, avanti il cammino, sorridiamo alla luce del sole. La gioia ci batte nel cuore, cantiamo in gloria al vento. Pionieri, oh e pionieri, la vita ci chiama in avanti, o su andiamo. Uniti siamo tanti e siamo forti, e nulla fermarci potrà, chi si cura è la nostra sorte. Nel mondo della libertà cantiamo ogni ora il vento, pionieri, oh e pionieri, la vita ci chiama in avanti, o su andiamo. Nel mondo siamo tutti fratelli, ci grida un gioioso ideal, un'unica fede ci unisce. La sete di pace e di amor cantiamo ogni ora al vento. Pionieri, oh e pionieri, oh e, la vita ci chiama in avanti, col suo andiamo. Il nostro è il destino della vita, del progresso dell'umanità, nostro studio e lavoro tenace. Nel cammino ci guiderà, cantiamo ogni ora il vento, pionieri, oh e pionieri, la vita ci chiama in avanti, o su andiamo, cantiamo ogni ora il vento, pionieri, oh e pionieri, la vita ci chiama in avanti. Let's see, I'm young. A Bergamo, città della cultura italiana per quest'anno, si è inaugurato un giardino a Gianni Rodari. La cosa naturalmente non poteva passare per noi inosservata e quindi Morena Moretti è andata a sentire Alberto Scanzi, che è proprio dedicato a Rodari. Questo libro c'era due volte Gianni Rodari, l'omino di vetro che raccontava le ingiustizie del mondo. Buongiorno Alberto Scanzi. Buongiorno Morena. A Bergamo avete inaugurato un nuovo parco ristrutturato dedicato a Gianni Rodari. Ci racconti la storia, com'è nata l'idea e perché proprio Rodari? Allora, l'idea nasce nel 2020, quando era il centenario della data di nascita di Gianni Rodari. Poi è arrivato il Covid, la cosa si è rallentata, si è fermata e poi quest'anno siamo ripartiti cercando di arredare questo giardino, metterlo a posto e mettere i leggi con cui ci sono tutte le poesie di Gianni Rodari, tutte no certamente, però una buona parte, sono 13 poesie di Gianni Rodari. In questo giardino, che non è un giardino grande, però è un giardino, diciamo così, strategico da un punto di vista della sua ubicazione, perché è vicino a una scuola media e a una scuola elementare. Diciamo che sia i bambini delle elementari che delle medie, per andare a scuola, passano da questo giardino, che collega proprio le due scuole al quartiere di Valtesse, che è nella zona stadio di Bergamo. Questo giardino ha questi leggi con queste poesie. Le poesie sono state scelte dai bambini. Sono state scelte dai bambini con le loro insegnanti, a parte una che l'ha scelta l'assessore al verde, alla pace, Marzia Marchesi, e una che l'ho proposta io. La mia poesia che ho proposto è Il pane, le altre le hanno proposte i bambini. L'abbiamo inaugurato il 20 marzo di quest'anno e era presente anche il direttore del Parco Rodari di Omegna, Alberto Poletti. Esiste un legame tra Bergamo e Gianni Rodari oppure è proprio una passione che alcuni di voi hanno, come te, che lo so che hai scritto anche un libro su Gianni? Io ho scritto questo libro e così, diciamo, sono riscattate tutta una serie. Ognuno nella sua vita ha letto le poesie di Gianni Rodari e ho scoperto che proprio riportando alla cittadinanza questo libro, tutti hanno riparlato di Gianni Rodari, per cui c'è entusiasmo intorno a questa figura che non ha nessun legame con Bergamo, ma un legame con il suo modo di scrivere, con la semplicità delle sue parole e con l'affrontare poi i temi grandi del mondo, la giustizia sociale, la pace, la guerra. Il lavoro che hanno fatto i ragazzi e i bambini è stato un lavoro molto interessante, immagino, sì. Con le maestre, quindi hanno fatto un percorso che ha portato a questo splendido risultato. Queste poesie che hanno scelto, secondo te, come sono? Orientati? Dimmi. Allora, innanzitutto ti dico che mi hanno invitato alla loro scuola. Pensavo di giocare con la fantasia, cioè cercare di fare il famoso l'esercizio del binomio fantastico. Ecco, pensavo di proporre a loro quello e cominciare un po' col chiodo, nuvola, motore, pulce, pianta, pantofole e vedere cosa salta fuori. Ci proverò. I ragazzi hanno scelto delle belle poesie che parlano della pace, che parlano della guerra e della giustizia, e anche delle diversità. Perché forse sono anche tematiche che i bambini, i ragazzi, quelli più giovani, quindi sentono anche di più forse. Tra l'altro non ti ho detto che queste poesie sono scritte in italiano, ma sono scritte anche con l'alfabeto Braille, così i ciechi possono leggerle, possono venire, porre le mani su questi pannelli e leggere con l'alfabeto Braille le poesie di Gianni Rodari. È molto bella questa cosa perché tra l'altro un parco così costruito e con il coinvolgimento dei ragazzi sarà un parco sicuramente molto curato, sì, anche da loro. È vero, ci contiamo su questa cosa, ci contiamo. E c'è anche un ritratto di Gianni Rodari nel parco? Sì, c'è un ritratto di Gianni Rodari che è fatto con un disegno di Oliviero Passera, che è un artista bergamasco, anche abbastanza quotato, e riprende un po' la copertina del mio libro. Riprende un po' la copertina del mio libro. Ovviamente ho tolto il nome dell'autore e rimane quello di Oliviero Passera. Ed è un po' il titolo del giardino. Gianni Rodari, l'omino di vetro che raccontava le ingiustizie del mondo. Quindi questa cosa serve per tenere in mente che Gianni Rodari era l'omino di vetro, quindi trasparente in tutta, che raccontava le ingiustizie del mondo. Nei giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità. C'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti non arrenderti.